Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Siamo in piazza San Pietro, esattamente vicino all'arco delle campane. La messa di Pentecoste è finita. Papa Bergoglio si avvicina come al solito ai malati che hanno partecipato alla messa. Il pontefice si avvicina a questo ragazzo. Il sacerdote lo presenta al Papa dicendogli che ha bisogno di esorcismo. L'espressione del pontefice si fa seria, estende le mani su di lui e prega intensamente. Gli esorcisti non hanno dubbi, è stata una preghiera di liberazione o un vero e proprio esorcismo. Beh, questa è oggi una delle notizie più ampiamente discusse sui quotidiani, l'esorcismo del Papa. Ve la riassumo, la notizia parte da Sat 2000, che è la televisione dei Vescovi. Dopo la messa di Pentecoste il Papa si avvicina ad alcuni malati, alcune persone con handicap sulla sedia a rotelle, dà le sue preghiere, le sue benedizioni. Poi c'è una sequenza che è raccolta, io davanti a me ho Repubblica, ma tutti i giornali riprendono il gesto plastico del pontefice che impone le mani sulla fronte di un ragazzo sulla sedia a rotelle. C'è un sacerdote vicino che guarda con attenzione, il Papa sembra proprio imprimere forza in questo suo gesto, e questo per la TV Sat 2000 è una chiara invocazione o preghiera o azione per allontanare il demonio da quel ragazzo. Tutti naturalmente oggi parlano dell'esorcismo del Papa, c'è stata altrettanto scontata la smentita generale da parte di padre Lombardi, cioè il Vaticano dice no, non è un esorcismo, è una semplice preghiera, ma questo non impedisce che i giornali fanno un'ampia trattazione, cosa sia l'esorcismo, qual è il valore dell'esorcismo, quali sono i sintomi dell'indemoniato, qual è l'iter per la Chiesa Cattolica prima di applicare un esorcismo, non è che lo faccia così come alla leggera, c'è un interrogatorio, bisogna fare degli esami medici, fare delle preghiere di guarigione, poi alla fine si decide proprio in alcuni casi estremi di applicare l'esorcismo. L'esorcismo fa parte comunque dei rituali canonici della Chiesa Cattolica, quindi io non ci vedrei nulla di strano e di singolare né nello smentirlo né nel dichiararlo. Però vale la pena di prendere questo argomento, perché è un gesto forte, è un gesto simbolico, anche nonostante la smentita per tutto il mondo, quello è il Papa che mette le mani e agisce direttamente di persona sul male impersonificato nel demonio. Poi esiste secondo me una grande e profonda inconsapevolezza, anche ipocrisia, dal parte sia dei credenti che dei laici. Se ammettiamo il lecito diritto di esercitare una religione, di professare una religione, di praticare una religione, non vedo perché ci sia questa sorta di oscuro pregiudizio, come se appartenesse a una credenza del passato nei confronti del demonio. Se Dio esiste, esiste anche il male, esiste anche il demonio. Se si ammette la possibilità o la necessità di una fede nei confronti di un Dio, si deve ammettere anche tutto quello che consegue, cioè che esista il demonio. Se un prete può benedire, se un prete può impartire dei sacramenti, alcuni preti possono anche esorcizzare il diavolo. Però su questo naturalmente c'è una sorta di pregiudizio, di imbarazzo. L'esorcismo è qualcosa di forte, il diavolo subito ispira all'idea dell'oscurantismo, della superstizione, ma se vale per il diavolo dovrebbe valere anche per Dio. Perché di fronte all'esorcismo non si può parlare in maniera così chiara e lampante e dire chi crede in Dio può anche chiedere nel demonio? Un papa, se è il capo di tutti i cristiani, può anche fare un esorcismo. L'unico dubbio che pongo io è che l'esorcismo venga fatto a una persona con handicap. Non vorrei che questo potesse riavvalorare antiche oscure teorie che la difformità, la disuguaglianza, il non essere allineato in tutti i canoni psicofisici rappresenti una sorta di segno del demonio, perché su questo devo dire chi ha un problema ci sta fortemente lottando, quanto ci sia di profondo e radicato pregiudizio in proposito. 800 24 00 24, voi come la pensate a proposito? Lascia libero questo corpo che è stato santificato dal battesimo, dal... Per capire se veramente una persona è posseduta dal demonio ci vuole l'esorcismo. L'esorcismo è l'unico strumento per liberarsi di Satana. È la Chiesa ad investire alcuni sacerdoti di questo compito tremendo. Padre Amort è uno di loro, il più esperto e autorevole. Quanti esorcismi ha fatto nella sua vita? Io penso grosso modo un 60.000. Alle volte parlano una lingua tipo aramaico, per esempio. Altre volte parlano una lingua assolutamente inesistente nel nostro linguaggio. Ha degli strumenti per praticare il rituale dell'esorcismo? Padre Amort è il più mediatico, il più noto degli esorcisti. Infatti su Repubblica c'è anche un'intervista a Padre Amort che dice: il diavolo spadroneggia, ne servirebbero di più, naturalmente, gli esorcismi. Giancarlo, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno a tutti, ciao e complimenti per la trasmissione e per l'argomento che state affrontando. Io volevo parlare di quella che oggi è una vera crociata contro i vertici della, contro il vertice vero della massoneria. Al vertice della massoneria c'è il demonio. Quindi ecco perché. Sì, che c'entra? Scusi, no, mi raccomando, là che voglio fermare, può dire quello che vuole, ma che c'entra con quello che stiamo dicendo questa mattina? No, se vorrei non era un massone, era un ragazzo su una sedia a rotelle che stava insieme a... Sì, no, vorrei finire il discorso, se mi permetti, perché sì. Non è tanto il discorso del ragazzo su una sedia a rotelle che ci sta benissimo, tanto quanto noi stiamo parlando se esiste il demonio, giusto? O del ragazzo... Io penso, sai cosa penso, Giancarlo? Chi dice che crede in Dio deve anche credere nel demonio, se no... Infatti è proprio questo. Non vedo problemi, non c'è... Il demonio esiste e mi piacerebbe che venisse identificato e venisse anche in qualche modo combattuto contro quelle che sono le armi che la fede in qualche modo ci mette a disposizione. E lei come lo combatte? Giancarlo? C'è il primo, lei immagina che durante il Padre Nostro ognuno di noi fa un esorcismo. Se voi prendete testualmente le parole del Padre Nostro, a un certo punto ci dice che liberaci dal male. Quando ci dice liberaci dal male, quello è il primo esorcismo che ognuno di noi fa ogni giorno. Se noi pregassimo tutti quanti ogni giorno, continuamente, la mattina e la sera faremo degli esorcismi. Quindi scusi Giancarlo, la sua percezione generale, perché c'è questa attenzione mediatica a una frase che non ha nulla secondo me di sconvolgente? Se la televisione dei Vescovi dice il Papa compie un esorcismo, fa parte delle cose che il Papa può comunque fare. E qual è il problema? Perché è così? In presente, quando si parla di diavolo, sembra quasi che si susciti una sorta di curiosità, di morbosità, di attenzione. No, è paura perché oggi cosa fa il demonio? Innanzitutto fa di tutto per cercare di farci essere da soli, farci rimanere soli nel nostro egoismo. Sì, però non faccia da predica. Scusi Giancarlo, le prediche non servono. Mi dica il suo punto di vista generale sulla notizia. Non ci serve che ci indottrini su cosa sia il demonio. Chi vuole si documenta. Non è questo lo spazio. Come la vede lei, diciamo, l'evento che sulle cronache dei giornali e dei telegiornali oggi spadroneggia? Il Papa fa un esorcismo, subito smentito. Perché è stato smentito, secondo lei? Che mi sembra ben documentato. Il demonio ha paura del Papa. E il demonio ha una paura talmente incredibile del Papa che riesce anche a muovere le penne di chi scrive sui giornali. Quindi il demonio diciamo in qualche maniera condiziona la stampa. Anche, sicuramente. E condiziona chi non ne parla e chi ha paura di parlarne. Quindi parlandone io in questo momento sono tranquillo. Bravissimo, lei è tranquillissimo. Va bene, mi fa molto piacere questo, grazie Giancarlo. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno a voi. Ignazio Ingrao è vaticanista di Panorama, appena pubblicato il libro Il Concilio Segreto, edizione Piembe, che verrà presentato oggi alle 18 alla Camera, che è un libro molto interessante, che rivela quelli che sono i retroscena del concilio, dal quale poi a catena arrivano e si sono susseguiti tutta una serie di eventi, fra cui anche l'elezione di questo Papa, e qui tra anche la polemica, non voglio chiamarla polemica, la questione questa mattina dibattuta sui giornali. Il tuo punto di vista, Ignazio, innanzitutto sulla notizia dell'esorcismo del Papa. Ma dunque, io ho seguito con attenzione quelle immagini di domenica. Allora, è indubbio che il Papa abbia fatto una preghiera speciale su questo ragazzo, una preghiera diversa che non ha fatto sugli altri ammalati che ha incontrato. Il Papa, proprio per un'attenzione particolare, soprattutto nei confronti della disabilità e dei malati, ha voluto che al termine delle celebrazioni gli ammalati non stessero più in prima fila, rimanessero in prima fila nella piazza, con dietro tutta la folla che preme, ma li fa spostare lungo, diciamo, la parte finale, il corridoio che poi lo porta in Vaticano sotto l'arco delle campane, così ha più tempo per stare con loro, accarezzarli, dire una preghiera, dire una parola di conforto. Ed effettivamente questo, per questo giovane ha fatto una preghiera speciale su richiesta del sacerdote che lo accompagnava. Perché sul giornale è scritto Radio Militia Christi? Cosa cambia? Qual è la differenza? Quale potrebbe essere? No, diciamo che poteva essere dei legionari di Cristo. Ah, legionari di Cristo, legionari, scusa, di Cristo, che sono molto attenti anche su questo tema dell'esorcismo. Ricordiamo che l'Università dei Legionari di Cristo, la Regina Apostolorum, è l'unica università in Italia che fa un corso di preparazione per gli esorcisti di livello universitario, perché purtroppo sono troppo pochi i sacerdoti che fanno esorcismo in tutta Italia, ma anche nel mondo, e quindi sono subissati dalle richieste di queste preghiere, quindi c'è bisogno, diciamo, di formarli adeguatamente. Però tornando al Papa, io sinceramente avrei qualche perplessità sul fatto che abbia fatto un esorcismo vero e proprio, perché innanzitutto stavamo in pubblico e in genere, insomma, gli esorcismi vengono fatti diciamo in privato, ma soprattutto, come accennavi tu, a me fa un po' paura far passare l'idea. Quello era un ragazzo chiaramente affetto da una grave disabilità. Sì. Fa molto paura che noi facciamo passare all'esterno, anche culturalmente, il messaggio che la disabilità possa essere connessa con il tema della possessione. Mi sembra in netta antitesi con quello che ha finora fatto detto questo Papa, mi sembra proprio in netta antitesi. Detto ciò, è vero che comunque per questo Papa, che è molto legato a una religiosità di tipo tradizionale, il demonio è una persona reale, viva, che opera nella storia e contro la quale bisogna combattere. Questo lui lo dice in maniera molto esplicita, e credo che sarà uno dei punti di frizione, diciamo, con l'opinione pubblica più progressista, che magari ama, diciamo, istintivamente questo Papa perché parla dei poveri, perché stigmatizza il sistema economico mondiale, però poi è molto legato ad una religiosità tra virgolette antimoderna, cioè quindi i miracoli, il diavolo e via dicendo. Quindi non si può adattare anche la figura del Papa secondo il proprio desiderio, cioè che dice il Papa ecologista, il Papa grillino, il Papa contro le tasse, il Papa è il Papa, fine. È una realtà con il suo portato, diciamo, culturale e con il suo sentire, che è legato ad una religiosità. Io poi ritengo che la religiosità popolare non sia una religiosità di serie B, tutt'altro, anzi è in qualche modo è la linfa che poi tiene in piedi anche la fede un po' di tutti. Pensiamo solamente all'Italia e a quello che sono poi le processioni del Venerdì Santo, piuttosto che le feste dei santi patroni, che comunque oltretutto tengono insieme anche il tessuto, diciamo, sono il tessuto connettivo anche culturale di molte, senti, di molte comunità. Sentiamo un attimo Giuseppina e anche altri ascoltatori. La domanda è questa: 800240024, in sottotraccia, come sta dicendo Ignazio Ingrao, come dicevo dall'inizio, dietro l'enfasi data a questa notizia, si nota forse un desiderio di adattare quelle che sono le figure importanti di una religione a esigenze secolari. Se il Papa è Papa, se il Papa è Papa dei cristiani, è giusto che anche il Papa ammetta e sancisca e prenda tutti i provvedimenti che pensa nei confronti del diavolo. Non è che del diavolo non si possa parlare perché siamo moderni. Se qualcuno, ripeto, ammette l'esistenza a pieno diritto di poter professare una fede, la fede va professata in tutti i suoi canoni, tra cui anche quello che c'è il diavolo. Giuseppina. Dunque, guardi, io ormai ero in linea e sono rimasta in linea perché ci sono e dico la mia. Devo semplicemente però dire che la telefonata che mi ha preceduta praticamente ha detto tutto ciò che io vorrei dire. Vabbè, lo dica con parole sue. Mi rimane da aggiungere una cosa, diciamo, che in Italia si tende a voler creare delle situazioni impossibili giusto per creare degli scoop. Questo non avviene soltanto in questa circostanza, ma avviene in tutte le circostanze della nostra esistenza. Vorrei dire a coloro che si comportano in questa maniera, visto che tutto il resto per quanto riguarda il Papa ormai è stato detto e lo condivido pienamente, che loro oramai non sono più credibili, che questo sistema di comunicazione, di dar notizia, di cercare di coinvolgere a tutti i costi, ormai non rende più, non è più utile. Ma non rende a chi? Non è utile a chi? Ma non è più utile né a loro, coloro cioè che lo attuano, e nemmeno a chi lo ascolta. Beh, scusi, adesso onestamente, è una cerimonia pubblica, trasmessa da tutte le televisioni. Il gesto in sé richiama attenzione, è giusto fare una riflessione. Noi oggi riflettiamo su questo. D'accordo, però si deve fare una riflessione che abbia un fine utile per la gente, utile per la popolazione. Noi non siamo missionari, no, signora, noi non siamo missionari. Sì. I giornalisti raccontano, aiutano a dare delle opinioni. Poi, onestamente, la prima a dare la notizia è stata la televisione della CEI, dei Vescovi, quindi non è che un passante qualsiasi ha detto attenzione, il Papa fa l'esorcismo. Sat 2000, la televisione della CEI, ha dato questa sua lettura, che il Papa stesse compiendo un esorcismo, avesse compiuto un esorcismo. Quindi noi commentiamo la notizia, non è che gettiamo scandalo, non bisogna aver paura delle parole, no Giuseppe? No, ma io cioè non sto incolpando adesso voi di questa radio piuttosto che... Ma a me non piace quello che avviene in Italia e vorrei che cessasse questa situazione. Questa benedetta mania, guardi, io ho 72 anni, non ho mai visto come in questi ultimi anni, già insomma un bel po' di anni, voler creare assolutamente grande notizia da ciò che è semplice. Cos'è che c'è di semplice in questa situazione? Il Papa non può avere semplicemente pregato profondamente per questo bambino, ragazzo, che ne aveva tanto bisogno e ne ha tanto bisogno? Perché voler andare oltre a tutti i costi e voler pensare che si crea un esorcismo in Piazza San Pietro? Sì, ma lo dice la televisione dei Vescovi, non è che si è inventato un passante. Ma chiunque lo dica, voglio dire, allora a questo punto arrivati, no? Dal momento contenta. Che è diventata notizia, ne sono pieni i giornali, questa mattina su questo, come vede, c'è argomento di conversazione e di riflessione, non è che finisce lì. La riflessione è perché ancora fa scandalo, fa scalpore che il Papa parli di diavolo o amministri il diavolo, non è che c'è stata una visione mediata, edulcorata, parziale di quello che è la fede, un Papa che riporta la fede ai suoi canoni essenziali, giustamente prende posizione anche nei confronti del diavolo, e se qualcuno di questo trova argomento di tema di oscurantismo, evidentemente è giusto che se ne parli questa mattina. Lucio Brunelli, buongiorno. Buongiorno. Lucio Brunelli, vaticanista del TG2, so anche hai una conoscenza personale con il Papa. Beh sì, ho conosciuto una decina di anni fa, ogni volta che veniva a Roma. Ecco, tu trovi singolare questa lettura, io non ci trovo nulla di singolare e mi meraviglio della meraviglia, però forse vale la pena di affrontare il problema sulle visioni totali, le visioni parziali che passano per i media. Sentito l'ascoltatrice dice è sollevato troppo clamore. Se il clamore si solleva è giusto, vuol dire che c'è qualcosa che ancora vada chiarito. Ma sì, certo è sorprendente che sia stata la TV dei Vescovi, no, a dare così tanto rilievo a questo episodio. Probabilmente il Papa, no, se fosse stato lui a decidere, forse non avrebbe preferito un po' di riservatezza su questa cosa, anche per rispetto della persona che lui si è trovato di fronte senza conoscerla, senza preavviso. Tu come la vedi, secondo te? Cosa è avvenuto in realtà in quei pochi attimi? Secondo me è avvenuto qualcosa di fuori, assolutamente di fuori dal comune, dall'ordinario. Cioè il Papa stava salutando dei malati come ogni volta al termine di una celebrazione, si è trovato di fronte a un caso che non era diciamo equiparabile agli altri. Il sacerdote, ho sentito bene il labiale ieri, riavvolgendo tante volte il nastro, e il sacerdote effettivamente parla di esorcismo. Quindi la smentita di padre Lombardi... No, però il Papa non ha, a questa richiesta del sacerdote, non ha risposto facendo un esorcismo in senso tecnico, perché credo che l'esorcismo è tutto un rituale. Poi non si fa in piazza di fronte a migliaia di persone. Effettivamente una preghiera, una breve ma molto intensa, anche drammatica preghiera di liberazione dal maligno. Adesso non so che parola abbia usato, però credo che lui l'abbia vissuta così, comunque come una, pur senza conoscere il caso, quindi una preghiera di liberazione. Allora Lucio, ti posso chiedere una gentilezza di aspettare soltanto un istante, dobbiamo dare velocemente le informazioni della borsa, visto che l'argomento è interessante e tu sei elemento di profonda chiarezza in questo momento rispetto alla difficoltà di trovare una linea di lettura di questo episodio, quindi ti pregherei di rimanere con noi ancora un minuto. Melog, la realtà condivisa. 800 24 00 24, stiamo analizzando quella che è una delle notizie più ricalcate, più calcate nei giornali questo giorno, è il presunto esorcista del Papa. Siamo arrivati alla conclusione che in realtà di esorcismo non si trattò, anche se fu richiesto un esorcismo in quell'occasione. Ce ne stava parlando Lucio Brunelli, che era che è vaticanista del TG2. Riprendiamo il punto con Brunelli. Brunelli, hai detto, tu hai ascoltato e riascoltato più volte la bobina del filmato, sei arrivato alla conclusione che il sacerdote, un legionario di Cristo che sta lì accanto a questo, ha pronunciato la parola esorcismo al Papa, comunque presumibilmente ha esposto un quadro di un ragazzo che nell'ambito del canone riconosciuto della Chiesa poteva avere un problema da trattare in quella maniera, ecco, diciamo così. Sì, diciamo che il Papa ovviamente non ha avuto il tempo e il modo per avere delle informazioni più esaurienti su questo caso, quindi credo che in via prudenziale abbia compiuto non un vero esorcismo, ma una preghiera che appartiene così anche alla tradizione della Chiesa. Una preghiera di liberazione dal demonio, una brevissima preghiera molto intensa, imponendo le mani sulla testa. Ci mette anche molta energia, si vede, proprio qualcosa che va oltre una semplice benedizione, quello si vede. Sì, infatti più che una benedizione è proprio una preghiera di liberazione, però è chiaro, bisogna anche mettersi nei suoi panni, credo che sia stato preso un po' alla sprovvista. E d'altra parte nella sua cultura, ma credo come nella cultura di ogni vescovo, di ogni sacerdote cattolico, queste esperienze sono insomma considerate possibili, anche se rarissime. Sappiamo che gli stessi esorcisti dicono che nel 95-90, se non di più, dei casi, spesso quello che appare un possesso diabolico, spesso poi magari è un problema più psichico o psichiatrico. Insomma, diciamo che il Papa comunque non ha avuto un iter che prevede un'attenzione particolare prima di fare un esorcismo vero e proprio. Certo, infatti, per quello che dico, che non so, io ho un po' dei dubbi sul fatto dell'opportunità di diffondere e dare così un po' sensazione a questo episodio, proprio perché insomma il Papa si è trovato un po' così preso alla sprovvista. Però lui crede, ovviamente, ha parlato tante volte del diavolo in questi 2 mesi e mezzo di pontificato e credo che abbia fatto degli esorcismi nella ecco sua. Tu che hai anche una conoscenza un po' più approfondita, ti risulta che diciamo nel percorso spirituale, ecclesiale del Papa ci siano stati episodi in cui abbia affrontato anche direttamente il problema dell'esorcismo? Questo non lo so, però so che quando si ponevano dei casi, questo con lui non ne ho mai parlato sinceramente, però ho letto degli articoli che a Buenos Aires, quando si ponevano problemi di questo tipo, lui indirizzava le persone a un vescovo, tra l'altro un vescovo luterano che faceva appunto questo tipo di rituali esorcisti a Buenos Aires. Ma questo appartiene credo all'esperienza di ogni vescovo nella Chiesa Cattolica, ogni vescovo in quanto tale ha la facoltà di praticare anche un esorcismo. Il caso appunto di domenica scorsa è molto particolare, ma insomma il Papa, come ha detto bene Ignazio Ingrao, ma hai detto bene anche tu, questo punto di vista è una fede tradizionale, insomma, nel senso che appunto. Però Ignazio Ingrao, volevo farti un'altra domanda a te, proprio per avere un quadro un pochino più completo. Il fatto che la richiesta nasca da un sacerdote dei Legionari di Cristo, che è un'organizzazione che in sé si dice portatrice di un carisma, anche molto con passati anche diciamo non proprio perfettamente limpidi, legati al proprio fondatore, via dicendo, non c'è un po' un'idea di voler captare una sorta di assecondare un proprio una propria linea, un proprio disegno, portare il Papa un po' sul suo territorio? È una domanda forse maliziosa la mia, ma tu poi hai gli strumenti per riportarla nella realtà. Ma io direi che è evidente che diciamo i Legionari di Cristo ci hanno provato, diciamo, dal mondo latinoamericano, perché il loro fondatore era messicano, quindi sono proprio all'interno diciamo di quella matrice culturale. Che fine ha fatto il fondatore? Il fondatore si dice che vivesse una donna, avesse una doppia vita. Il fondatore ormai è morto, e Papa Benedetto XVI appunto aveva poi già nel 2006 chiamato insomma a fare una vita di penitenza e di nascondimento, proprio perché lo aveva ritenuto colpevole di abusi sessuali e di una doppia vita, quindi aveva dei figli, aveva abusato di seminaristi e via dicendo. Questo è, non era una bella storia, ecco, diciamo. Ahimè, nella storia del Legionario di Cristo, però diciamo c'entra, diciamo, relativamente con invece l'attenzione e la sensibilità che i legionari, che continuano comunque, pur commissariati dal Vaticano, la loro azione, ancora ordinano preti, hanno università e via dicendo, e proprio venendo, diciamo, dal mondo latinoamericano come origine, poi si sono diffusi in tutto il mondo, hanno sempre avuto questa sensibilità appunto sul diavolo, sul demonio, e come dicevo, non a caso la loro università è l'unica che fa corsi per formare degli esorcisti. Quindi però, Ignazio, non è tanto una captatio benevolentiae, sì, più che altro, diciamo, un idem sentire, diciamo, un medesimo sentire che hanno su questo tema del però diavolo. Però io posso farlo, demonio, siccome non sono vaticanista, e posso farmi delle domande. Dato il clamore che ha avuto questa mattina la notizia, è tutto, io te la pongo in maniera molto semplice: non è che il Legionario di Cristo, in quel momento, sorprendendo il Papa, facendogli una richiesta di esorcismo, rispondendo il Papa comunque in perfetta buona fede con una preghiera speciale e particolare, abbia un po' condizionato l'immagine generale, dicendo: vedi, il Papa è come noi, sta con noi, è sulla nostra battaglia, loro hanno dei carismi all'interno della loro congregazione, parlano palesemente e seguono palesemente questa linea, diciamo, diretta, per qualcuno potrebbe sembrare arcaica, ma comunque legata comunque a una riconosciuta azione nei confronti delle forze del male, che non è proprio l'idea più moderna e contemporanea della fede, però c'è. No, guarda, tu sai che io sono un vaticanista che parla molto liberamente, quindi diciamo, dico senza problemi ciò che penso. Io ciò che penso su questo, no, semmai rovescerei la domanda, nel senso che è chiaro ormai dopo 2 mesi che questo Papa appunto è molto attento a questo profilo del demonio, delle possessioni, appunto del demonio come una presenza fisica, come una persona reale che agisce. Quindi questo ovviamente poi attira tutto questo sentire, tutte quelle persone che hanno questo genere di sensibilità, cioè diventa un catalizzatore. È il contrario, mentre se c'è qualcuno che in qualche modo allontana o comunque tiene solo sullo sfondo questo tema, quando invece arriva qualcun altro come questo Papa che lo pone in primo piano, allora attira e vedremo sempre più diciamo crescere questa attenzione, e anche come raccontano poi anche gli stessi esorcisti, cioè nel momento in cui si sa che c'è un esorcista in una diocesi, questo raccoglie centinaia e migliaia di persone. Poi, come è stato detto opportunamente, il 95% dei casi sono casi che hanno bisogno di un trattamento psicologico e non certo, diciamo, ministeriale o sacerdotale, però poi tra questi c'è anche qualche caso reale, quindi direi che, diciamo, sulla crescere. Doppia lettura che la televisione della CEI, diciamo, amplifica il caso e poi il Vaticano in qualche maniera lo stoppi. Ma lì probabilmente, come dire, c'è stata, diciamo, un po' una fuga in avanti magari degli autori del programma, che questo programma va di retro, che fa la TV della CEI appunto sul diavolo o su Satana. Poi è chiaro che, come dire, Lombardi non poteva fare altro che smorzare, però come è oggettivo, e questo l'abbiamo detto, che il Papa ha fatto una preghiera diversa da quella che ha fatto sulle altre persone. Così come è chiaro che è vero che il demonio può, diciamo, impadronirsi delle persone più deboli, quindi anche di chi ha fragilità psichica o mentale, però ripeto, non mi piace se poi si fa questo cortocircuito, si manda un messaggio per cui appunto c'è il disabile posseduto dal demonio. Lì avevamo comunque oggettivamente di fronte una persona ammalata e fragile, quindi il Papa anzitutto credo che abbia pregato per questa persona ammalata e fragile. Ecco, sentiamo qualche ascoltatore velocemente. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. E come ho detto ai suoi collaboratori poc'anzi, ho la netta sensazione che la divulgazione di questa notizia da parte della CEI abbia il sapore amaro di una polpetta avvelenata nei confronti del Papa. E perché i vescovi dovrebbero dare una polpetta avvelenata al Papa? Scusi. Perché visto la persona che è come si rappresenta, assomiglia a dei papi precedenti che tutto sommato non è che si siano dimostrati. Beh, io guardi, a me piace andare a capire i meccanismi segreti e nascosti, ma complottismo in questo caso mi sembra un po' esagerato, mi sembra che magari è passata con un po' di leggerezza la notizia, che forse poteva essere un pochino più riflettuta prima di essere divulgata. È chiaro che il Papa fa un esorcismo, diventa una notizia di respiro generale. Cristian, velocemente, poi diamo la linea. Cristian. Sì, grazie. Niente, io non mi meraviglio di questo gesto del Papa. Lui, in quanto vescovo, lo diceva anche il suo ospite, è il suo dovere, diciamo, quello di fare l'esorcismo, tanto più diciamo che anche noi, quando partecipiamo alla celebrazione dei battesimi dei bambini, c'è un momento in cui c'è l'esorcismo nella rinuncia a Satana. Si rinuncia a Satana alle sue pompe, chiaro. Voglio dire, perché ci dobbiamo poi meravigliare di questo soggetto? Melog, la realtà condivisa. 800240024, stiamo approfondendo anche con i nostri ascoltatori la notizia del Papa esorcista. Il Papa comunque rivela un'azione, una possibilità di un'azione diretta, decisa, non soltanto metaforica, nei confronti del demonio e delle forze del male. Francesco, buongiorno. Buongiorno, sento, mi trovo completamente d'accordo sulle varie cose dette, cioè su quella iniziale detta da lei, che non ci sorprende il fatto che si parli di Satana, che si parli del male. Chi crede in Dio crede anche nel demonio e nelle sue opere. Come ha detto il giornalista collegato con lei, gli esorcismi si svolgono comunemente nella Chiesa, pur essendo una piccolissima percentuale, perché tutti gli altri casi vengono indirizzati a psicologi o psichiatri. Ma lei ne ha esperienza, un'esperienza personale, Francesco? Guardi, io ho un'esperienza che è successa a Verona. Una sera mi trovavo in centro a girare e ho visto una chiesa aperta, al che sono entrato, perché alle 10:30 di sera non è normale, e ho visto questo sacerdote girare con l'ostia consacrata, gente che cadeva per terra, scene veramente, dico, ridicole, al che la mattina dopo ho subito telefonato in curia, ho parlato con il vicario del vescovo, hanno fatto dei sopralluoghi e hanno visto che anche in quei casi c'è una esagerazione di questi fenomeni, che anche in questo caso non era fatta da sacerdoti diocesani, cioè dipendenti dal vescovo. In quel caso cosa stava accadendo? Cos'era, una specie messa carismatica, queste cose? Sì, c'era una specie di preghiera di liberazione, e questo sacerdote utilizzava l'ostia consacrata passando davanti a queste persone, che poi cadevano per terra con un servizio di sicurezza che le ritirava su. Ma veramente era una scena ridicola. Beh, sono queste esagerazioni che, esatto, nei gruppi di preghiera, nelle associazioni vengono, che in effetti sono atti di isteria collettiva, non è che il demonio colpisce collettivamente centinaia di persone. Io tutte le volte che ho trattato seriamente questo argomento, persone documentate mi hanno detto che i casi reali di inspiegabilità scientifica rispetto a delle manifestazioni apparimenti rappresentabili come isteria sono molto rari, rarissimi. Nonostante questo, è giusto che chi questo ha per canone e per convinzione lo faccia. Certo, d'accordissimo con lei. Infatti l'unico rilievo che mi permettevo di fare, secondo me, non era proprio il caso che un sacerdote, cioè forse è stato un laico, ma un sacerdote che vada a sussurrare all'orecchio del Papa qualcosa in piazza San Pietro alla fine di una messa di Pentecoste, cioè insomma, secondo me era proprio fuori luogo. Ecco, lei mantiene la mia perplessità, che mi hanno, diciamo, fugato ufficialmente i vaticanisti, che in realtà che un legionario di Cristo in quel momento a sorpresa tirasse fuori al Papa il fatto dell'indemoniato, e che il Papa, preso di sorpresa, ha applicato la sua preghiera speciale, però diciamo si è voluto un po' tirare per la giacchetta, anche se il termine è brutto, il Papa su questo versante del demonio, che oggi ha avuto il suo effetto, perché oggi chi ha visto e sentito comunque si è fatto l'idea di un Papa più fortemente legato a una visione tradizionale, piuttosto che un Papa ecologista, che un Papa buonista, che un Papa antitasse e via dicendo. È un Papa con tutti gli attributi di essere Papa, e tra cui quello di essere il primo combattente contro il demonio. Luciana, buongiorno. Ah, buongiorno. Stamattina mi sono svegliata con queste parole, ascoltavo la radio. Il Papa accusato di esorcismo. Ma accusato, mica è una colpa, eh. Ma lo chiede ai giornalisti della sua radio. Poi subito dopo è giallo sull'esorcismo del Papa. Beh, oggi se sarà un giallo l'abbiamo chiarito, ce l'ha detto. Beh, non è un giallo. Se per qualcuno fosse stato un giallo, un collega molto attento che conosce la materia ha detto semplicemente l'iter è stato questo. Un sacerdote ha detto al Papa: questo ragazzo avrebbe bisogno di un esorcismo. Il Papa ha fatto una preghiera particolarmente intensa. Fine, non c'è altro. Sì, ma appunto sono le parole che sono sbagliate. Vabbè, noi l'abbiamo chiarite. Accusa di esorcismo e giallo sull'esorcismo. È proprio le parole che non vanno. Si è chiarita lei però nel corso di questa trasmissione? Sì, ma io non ne avevo un gran bisogno, perché io sono cattolica, anche praticante, e non mi vergogno ovviamente. Beh, però anche essendo cattolica qualche dubbio uno può avercelo. Qualche volta sì, contro i cretini, contro appunto quelli che diceva lei poco fa, le sette, i carismatici strani, quelli che vanno in deliquio o cose del genere. No, io leggo il Vangelo e mi basta, è la parola di Cristo, e il Papa, chi più di lui può fare adattare il Vangelo? Lo sa, però a la difficoltà è nel racconto quotidiano di realtà che sono incommensurabili, ineffabili e perfettamente raccontabili solo a chi le condivida, da parte di giornali che vedono la notizia, il Papa esorcista, e quindi subito chiamano Padre Amort e si compone la pagina. Grazie Luciana. Katia. Sì, buongiorno. Io volevo dire questo, che in realtà io non trovo nulla di strano né sul fatto che naturalmente, come è stato detto, il Papa potrebbe aver fatto una preghiera molto profonda per il ragazzo, né sul fatto che magari potrebbe anche aver fatto un esorcismo. Ma l'esorcismo non si fa così in piedi su due piedi, sì, è più complesso. No, per carità, però voglio dire, da questo Papa mi aspetto questo ed altro, nel senso, in due mesi ha compiuto gesti che altri papi non hanno compiuto. Quindi secondo me il fatto che se ne parli è proprio perché secondo me c'è paura un po' a parlare del maligno, cioè c'è timore, è più che altro appunto un fatto di timore nell'ammettere che se esiste il bene deve per forza esistere anche il male. Pronto? Sì, ecco un attimo, ho perso la sua voce. Sì, scusi, ho perso le ultime parole, c'è stato un problema sul collegamento. Katia, cosa stava dicendo? Ah no, stavo dicendo che secondo me il fatto che non si ammetta, o comunque si ha paura di parlare del maligno, è perché non si parla di maligno è perché c'è paura, è più che altro un fatto. Beh, questo di paura. Nasce secondo me, guardi, e parla il più laico dei possibili raccontatori di queste vicende, è che parlare di tutti gli aspetti di una confessione religiosa in realtà significa doverne in parte conoscere i meccanismi, conoscere la storia, conoscere le circostanze. Parlare di diavolo semplicemente così viene subito in mente tutta una serie di film sugli esorcisti, sui diavoli e sulla fiction, e sembra che non faccia parte comunque di quel mondo, ma in realtà è esattamente il contrario, come questa mattina abbiamo cercato di dimostrare. Domani. Thank you.